Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Renzi ha fatto una battutina non sull'operato di Gentiloni, ma sulla situazione in cui il paese purtroppo è dopo il 4 di dicembre. Adesso tutti si leccano le ferite, ma nessuno ha chiesto scusa per quel no il 4 di dicembre, che ha indebolito in modo fortissimo. Ma questo è il dicembre? Ha indebolito in modo fortissimo. Si chiama democrazia. Eccoci qua, 18 e 7 minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, che dallo spazio del weekend 7.30 il sabato mattina, 8.30 la domenica mattina, trasloca per qualche giorno in questo orario 18.20, 8.00, 24.00, 24 per stare insieme in diretta tutta la sera. Avete sentito Davide Ermini del PD, lo risentiamo un pezzettino, il teorema Renzi, cioè tutto, anche la vicenda Fincantieri, per esempio, dipende dal voto sbagliato, secondo loro, che invece gli italiani hanno dato a maggioranza il 4 dicembre contro la riforma, che però di lì dipende tutto, anche la vicenda Fincantieri, risentiamolo. Renzi ha fatto una battutina non sull'operato di Gentiloni, ma sulla situazione in cui il paese purtroppo è dopo il 4 di dicembre. Adesso tutti si leccano le ferite, ma nessuno ha chiesto scusa per quel no il 4 cioè, di dicembre. Dopo quel voto il governo italiano si è indebolito, questo è il teorema Renzi, e anche per questo oggi la Francia si può pappare Fincantieri. In realtà c'è una proposta del ministro francese che dice 50-50 Italia-Francia con guida italiana per questi benedetti cantieri navali. Sentiamo su questo Di Maio. Nella politica internazionale non ci sono leggi da rispettare. Ci sono prima di tutto accordi, ci sono accordi di buon vicinato, comportamenti di buon vicinato. Allora, se loro ci mettono fuori dai loro cantieri, noi ci riprendiamo la nostra rete telefonica e soprattutto quella più strategica. E allora, si può fare attualità, qualche buona notizia, qualche buona pratica qua là dall'Italia quando possibile, per recuperare un po' la fiducia in noi stessi. Siamo tutti un po' sfibrati dalla cronaca, dalle cattive notizie, a tutto quello che non va. Intanto una buona notizia è questa qua: a Savona va alla grandissima il primo stabilimento balneare, il primo bagno autogestito, dove l'ombrellone te lo paghi in natura, fai un po' di pulizia della spiaggia, fai un turno al bar e ti danno l'ombrellone, la cabina, il pedalò, tutto gratis o a prezzi scontatissimi. Una soluzione originale contro il caro ombrelloni. 800 24 00 24. Ancora Di Maio sul caso dell'SMS, del esponente del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Roma, Stefano, all'ex direttore generale dell'ATAC, l'azienda dei trasporti romana che sta fallendo, Rota, che poi si è dimesso, che dava indicazioni, faceva il nome di un'azienda che lavora nella biglietteria e che avrebbe potuta fare al caso dell'ATAC. Di Maio dice non è una raccomandazione, era un atto di indirizzo. L'SMS è pubblico perché noi abbiamo chiesto al consigliere comunale di pubblicarlo, così voi potete valutare se si tratta di una raccomandazione oppure no. Di certo per me non lo è, perché in quel caso il presidente della commissione trasporti non ha né raccomandato una persona né un'azienda, ma ha fatto quello che deve fare il consiglio comunale, l'atto di indirizzo nei confronti del governo di una città, ma lo potete valutare direttamente, ecco, voi. Valutiamolo noi, valutiamolo tutti insieme. Allora, l'SMS era questo, di Stefano a Rota, direttore generale in quel momento dell'ATAC. Ieri ho visto i rappresentanti di Conduent, mi hanno mostrato le loro proposte per un nuovo sistema di bigliettazione, ho visto che loro sono già presenti a Milano, quindi immagino li conoscerai bene, perché Rota è stato direttore generale dell'ATAC dell'ATM di Milano. Io non sono un tecnico, prosegue Stefano, ma sicuramente l'attuale sistema di ATAC è a dir poco obsoleto. Quando ci vediamo sicuramente possiamo approfondire il tema. Buona giornata. Allora, questo è, secondo voi, è un atto di indirizzo, come dice Di Maio, o è una raccomandazione? Allora, un atto di indirizzo, cosa possiamo dire? intanto via SMS sembra un atto di indirizzo, lo fai in una sede ufficiale forse, io questo mi sentirei di precisarlo, ma soprattutto cos'è un atto di indirizzo? In che modo, come dicono i 5 Stelle da sempre, la politica non deve entrare nella gestione delle aziende, ma dare degli indirizzi? L'ATAC dovrebbe... L'indirizzo qual è? Dire gli obiettivi generali, dove devono andare gli autobus, quanto possono costare i biglietti, quanti mezzi ci devono essere in circolazione. Qui però Stefano fa il nome di un'azienda in particolare, no? E non è un atto di indirizzo questo Di Maio. Questo è un consiglio che ci può anche stare, perché se questa è un'azienda meritevole, che ha lavorato bene, ma ben venga a Roma a lavorare come hanno fatto a Milano. Però diciamo allora che tante altre volte che si è gridato allo scandalo 5 Stelle nei confronti di altri partiti, forse erano anche quelli atti di indirizzo. Non mi hanno aggredito perché non hanno coglioni. Era un branco di giovinastri sui 20 anni, ubriachi e anche forse eccitati da sostanze che non erano il vino. E io alle 3:10 ero qui che non dormivo, li ho sentiti arrivare, perché qui ogni anno arrivano questi ragazzi che non hanno né arte né parte, non hanno strafotenti, provocatori, arroganti, ti sfidano a occhi aperti. La nota vicenda di Mauro Corona, nella notte tra sabato e domenica alcuni giovinastri, come li definisce lui, alcuni vandali, insomma, gli hanno fracassato la vetrata di casa sua dove vive, lavora, scrive, vive con la figlia. Lui ha detto: li avrei macellati. A quel momento lì mia figlia di sopra era terrorizzata, perché era... allora io ho capito, e in quel momento lì, ascoltatemi politici, in quel momento lì che mi sono sentito oltraggiato, violentato a casa mia e sghignazzavano ste merde, sono partito con l'accetta. Fortuna che ero scalzo e mi faceva male i piedi a correre, perché se li avrei raggiunti, quella porcheria lì, che non hanno rispetto né etica né un controllo e ti sfidano apertamente, li avrei macellati. A parte se li avrei raggiunti, che gli è scappato, uno scrittore non dovrebbe, però era preso dall'enfasi Mauro Corona. Allora io dico, va bene essere coerenti anche con il personaggio Corona, però a mente fredda adesso forse sarebbe meglio dire: avrei fatto una stronzata a inseguirli, a macellarli, perché a mente calda nemmeno io so come reagirei se entrassero in casa mia e mi sfracassassero il vetro di casa, non lo so, però dopo sicuramente tornando in me stesso direi, come dico e come si è detto miliardi di volte, ci vuole proporzione, no? Tra l'offesa e la difesa, altrimenti siamo nel far west più assoluto. Andare a macellare delle persone che ti hanno rotto il vetro di casa forse è un po' troppo, altrimenti entri per sbaglio in un giardino, in una proprietà privata, in campagna, in montagna come vive Corona, ci entri magari per sbaglio perché non ti sei accorto che c'è un cartello, una recinzione, e ti sparano come succede in America. Forse a mente fredda adesso Corona potrebbe dirlo, però lui, coerente col personaggio, va avanti così. Però voglio farvi risentire la prima parte quando descrive questi giovani ubriachi. Lui è stato condannato, no, Corona, per ubriachezza molesta, può capitare a tutti. Corona è un personaggio a cui credo vogliamo tutti bene, perché ha un modo di raccontare, di dire, che affascina. Però sembra, vi ricordate quei vecchi, gli anziani che dicono che se la prendono quelle cose che facevano loro da ragazzi, no? Adesso vedono i ragazzi e dicono: guarda, non c'è più come facevamo noi una volta. Sentite come descrive questi giovani che sono entrati in casa sua, volevano entrare in casa sua. Sembra quasi il suo autoritratto, come era lui da giovane. Non mi hanno aggredito perché non hanno coglioni. Era un branco di giovinastri sui 20 anni, ubriachi e anche forse eccitati da sostanze che non erano il vino. E io alle 3:10 ero qui che non dormivo, li ho sentiti arrivare, perché qui ogni anno arrivano questi ragazzi che non hanno né arte né parte, non hanno strafotenti, provocatori, arroganti, ti sfidano a occhi aperti. Si può fare, si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Noi siamo d'accordo a sostenere qualunque intervento blocchi un'invasione. Un'invasione, un'occupazione militare da parte di immigrati che non scappano dalla guerra, un tentativo di sostituzione etnica, organizzato e finanziato, quindi che si svegliano. Certo, non sono due navi a risolvere il problema, occorre proteggere i confini, occorre il blocco navale, occorre affondare le navi degli scafisti e occorre sequestrare anche le navi di quelle ONG che si rifiutano di avere controlli e polizia a bordo. Spudorate le ONG che non accettano di firmare le regole del gioco, il codice d'ingaggio, anche perché, ripeto, non è un codice italiano, ma è un codice fatto dall'Italia su richiesta europea, quindi è una regola europea. E chi non vuole i nostri militari a bordo vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Buonasera, Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Agli ascoltatori ricordo 800 24 00 24, avete sentito, De Filippi, sì, le voci di Brunetta, Salvini, ma c'è anche il Movimento 5 Stelle, sono tutti contro di voi che non avete firmato questo codice. Ripeto, ricordo velocemente quello che è accaduto. Ieri il Ministero dell'Interno ha convocato le ONG che soccorrono i migranti nel Mediterraneo per fargli firmare un codice di comportamento, un codice che, se abbiamo capito bene, è stato in qualche modo concordato anche nei vertici europei. È l'unico forse risultato che l'Italia ha portato a casa dopo settimane di trattative in Europa. L'Europa che normalmente ci lascia sostanzialmente da soli, pur con dei finanziamenti però insomma sporadici, ad affrontare la questione dei migranti che vengono dalla Libia verso l'Europa, ma che sbarcano tutti fondamentalmente in Italia. Cosa prevede questo codice? Per esempio, la presenza di militari a bordo delle navi, il divieto di trasbordo dei migranti da una nave all'altra. Voi non avete firmato, ma sostanzialmente hanno firmato in pochi. Forse questo codice a questo punto è un mezzo fallimento del governo italiano, o no? Non lo so. Quello che noi constatiamo è il fatto che c'è un'ignoranza grossolana per quanto riguarda l'azione umanitaria, perché c'è una levata di scudi da parte dell'intero arco costituzionale contro le organizzazioni che non hanno firmato, ma basterebbe conoscere minimamente il mandato di queste organizzazioni, la storia di queste organizzazioni, soprattutto i codici interni, sì, che regolano la vita di queste organizzazioni, per capire che non c'era spazio per poter firmare un codice che prevede, per esempio, la polizia di la presenza di polizia. Lei l'ha già detto, l'ha detto anche in alcune interviste, militari a bordo, per noi che siamo un'organizzazione umanitaria non è possibile. Però io le voglio mettere subito questo carico, diciamo, no, davanti, questo massiccio. Adesso è vero, voi avete una tradizione, nessuno mette in dubbio, qualcuno l'ha fatto, ma credo che la maggior parte delle persone credano veramente alla vostra assoluta buona fede. Fate un lavoro nel Mediterraneo ma anche altrove, Medici Senza Frontiere e altre ONG, è encomiabile, però il momento è straordinario. C'è un'ondata di migranti che viene da paesi in guerra, ci sono i trafficanti che bisognerebbe cercare di fermare, ci sono i paesi d'accoglienza che in certi casi sono con un'attenzione alle stelle per l'arrivo dei migranti stessi. Cosa ci sarebbe di male in questo momento a cambiare le regole, no? E a dire va bene, siamo un'ONG umanitaria, però possiamo avere dei militari per esempio a bordo in una situazione straordinaria come questa? Guardi, cioè, creare un vulnus dal nostro punto di vista è assolutamente inutile. Finora abbiamo ottemperato a un lavoro importantissimo salvando 65.000 persone in perfetto accordo con il sistema di coordinamento di Roma della Guardia Costiera, in perfetto accordo, non violando le leggi. Le cinque volte che noi siamo entrati nelle acque territoriali libiche abbiamo chiesto l'autorizzazione sia alla nostra Guardia Costiera che eventualmente a quella libica, quindi non vediamo quale sia effettivamente il problema, se non una cortina di fumo per creare il caso, per limitare l'azione delle organizzazioni non governative. Noi abbiamo in maniera assolutamente quasi in maniera costante, ospitata a bordo. Ovviamente la polizia, che soprattutto quando si rientra al porto dopo il passaggio del sistema sanitario nazionale, che verifica le condizioni a bordo, sì. quindi non è un non sarebbe un vulnus avere dei militari a bordo. I poliziotti vengono e verificano le cose. Il problema è se loro partecipano alle ricerche e soccorso, cioè vivono all'interno con noi, sono all'interno con noi, dei poliziotti armati, cioè non è previsto in nessuno dei nostri posti, cioè in 75 paesi, non in uno, in 75 paesi e in 46 anni. Non è previsto da nessuna parte, però le ripeto la domanda, non è questa una situazione straordinaria che forse richiede... No, guardi, la situazione straordinaria, se permette, è quella dell'Uganda, con 1.140.000 persone che arrivano. La nostra è una situazione in cui 90.000 persone finora sono arrivate attraversando il Mar Mediterraneo nel 2017, 170.000 l'anno scorso. Se l'Europa organizzasse un sistema di ricerca e soccorso in mare, non ci sarebbe bisogno di noi. Ecco, questa è l'altra domanda, però. L'altra domanda che le voglio fare è questa: non rischia una posizione come la vostra di indebolire in qualche modo l'Italia, cioè il nostro paese rispetto all'Europa? L'Italia che dopo settimane di trattative non ha portato a casa granché come risultato, propone questo codice di comportamento, le ONG si rifiutano di firmarlo, l'Italia come paese non rischia di trovarsi indebolito ancora di più in Europa? Io credo che l'Italia sia particolarmente indebolita. In questi tre anni non è riuscita a raggiungere nessun obiettivo che aveva con l'Unione Europea per quanto riguardava la condivisione della gestione dei flussi. Non si può pensare che le organizzazioni non governative, che sono, ricordo, veramente l'anello debole di questa catena, sono state attaccate, vilipese, insomma, negli ultimi mesi in maniera brutale anche, siano effettivamente alla mercé, no, di questo governo e accettino qualsiasi cosa. Noi abbiamo chiesto e abbiamo apprezzato lo sforzo del governo a rivedere questo codice, ma su due punti fondamentali: quello dei trasbordi, che a noi sembra veramente una cosa difficilissima da capire, perché i trasbordi invece sono fondamentali, continueranno, vedrete, nei prossimi giorni. In questo momento, per esempio, c'è stato un trasbordo, no? In questo momento ci sono state 500 persone salvate da una nave mercantile. Queste persone sono state trasbordate sulla proattiva. E qual è il motivo? Lo chiedo di spiegarlo anche agli ascoltatori. Il motivo per cui il Ministero dell'Interno invece chiederebbe il divieto del trasbordo, imporrebbe il divieto del trasbordo. Per quale motivo? Qual è la razza? L'imbarcazione che arriva, per capirci, e fa l'intervento dovrebbe portare fino al primo paese sicuro le persone. Delle volte ci vogliono 48 ore. Se ci sono delle piccole imbarcazioni, i tempi si dilatano ancora. Ma la ratio di questa cosa che viene chiesta, che voi non avete firmato, il motivo per cui il Ministero dell'Interno ve lo propone, no? Per spiegare agli ascoltatori, qual è? Per in qualche modo rendere per rallentare le operazioni, forse, e quindi per dare un segnale di stop dall'altra parte del Mediterraneo, per dire, guardate, non è che partite e poi ci stanno le ONG che vi caricano, vi trasbordano su altre navi e vi portano in Italia. Questo non accade più. Per dare un segnale di stop, è questo? No, non credo che sia questo l'obiettivo. L'obiettivo credo sia quello di consentire alle organizzazioni che hanno delle imbarcazioni piccole di non poter più fare questo tipo di attività. Cioè, si alza lo standard medio delle imbarcazioni e si impedisce a quelle più piccole di fare un lavoro più presente, perché generalmente quelle più piccole stanno sempre all'altezza dell'area di ricerca e soccorso, fanno l'intervento e portano alle altre imbarcazioni, sia della Guardia Costiera che delle organizzazioni non governative che delle varie marine militari, le persone per poi riportare le persone verso l'Italia, come si fa nella parte dei casi. Però il Ministero dell'Interno, Minniti, ha detto che ci saranno delle conseguenze per le navi delle ONG che non hanno firmato questo codice, non saranno più coordinate queste navi dalla Guardia Costiera, fino poi a dire che potrebbe essere negato addirittura l'accesso nei porti. È possibile che accada? No. Cosa farete in quel caso? No, secondo me noi aspettiamo dei chiarimenti su questo. Io le faccio un esempio: oggi stesso la Guardia Costiera è in perfetto contatto con Medici Senza Frontiere per quanto riguarda un soccorso che si sta svolgendo in questo momento. per cui credo che insomma bisogna rivedere un po' le posizioni del governo e chiarire soprattutto quali saranno le conseguenze. Noi siamo con due imbarcazioni, cioè una che è la VOS Prudence presenti nell'area di ricerca, l'altra in collaborazione con SOS Mediterranee, anch'essa sta facendo un'attività di soccorso in questo momento in quelle zone lì. Vedremo se effettivamente al ritorno nei prossimi giorni porteremo delle persone, che tipo di conseguenze ci saranno. Noi tenteremo veramente di collaborare in maniera assolutamente seria, come abbiamo fatto finora, e rispondendo a Brunetta non abbiamo niente da nascondere. Noi volentieri lo ospitiamo a bordo se lui ha voglia di venire a vedere l'attività che facciamo. L'abbiamo fatto per 65.000 persone e speriamo di poter continuare in modo assolutamente rispettoso di tutte le regole marittime che esistono in questo paese. Senta, lei ha ricordato le cifre, siamo a 94.000 sbarchi quest'anno, la cifra circa dell'anno scorso, siamo in linea 170.000, sì, era alla fine dell'anno, sì, no, dico, a parità diciamo di mesi, lo stesso periodo dell'anno scorso. Pensa che gli accordi in Libia che si vanno delineando, prima l'Italia adesso la Francia soprattutto, che ha preso un po' in mano la situazione, possano contribuire a far diminuire le partenze o no? Beh, è prevedibile, soprattutto non tanto gli accordi che si stanno svolgendo in questo momento, ma la presenza di un pattugliamento militare italiano sulle coste, che è assolutamente una novità da questo punto di vista, potrà avere sicuramente delle conseguenze. E l'allontanamento forse anche delle organizzazioni non governative consentirà forse dei respingimenti. In questo caso sarebbe molto opportuno riflettere su questi respingimenti, perché sappiamo quali sono le condizioni dei diritti umani in Libia in questo momento, che ricordo non è un paese assolutamente sicuro, è un paese che vive una fase difficile, anche se ci sono alcuni accordi di pace, ci sono svariati capi di Stato, cioè ce ne sono due ufficiali in due parti del paese e più i clan. Quindi siamo in una situazione assolutamente caotica da questo punto di vista. Riportare le persone che stanno scappando, molte delle quali avrebbero ricevuto in Italia una protezione umanitaria, mi sembra che veramente ci sia molto da riflettere. Perché l'Italia di fatto, pur non violando le leggi, sì, in qualche modo respingerà o bloccherà la partenza appunto di persone che potenzialmente volevano raggiungere un paese sicuro. Va bene, grazie Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere, grazie per essere stato con noi. E agli ascoltatori, ricordo 800 24 00 24, con l'invito anche a Brunetta a salire a bordo delle navi di Medici Senza Frontiere, perché dice il presidente di Medici Senza Frontiere, non abbiamo niente da nascondere. Spudorate le ONG che non accettano di firmare le regole del gioco, il codice d'ingaggio, anche perché, ripeto, non è un codice italiano, ma è un codice fatto dall'Italia su richiesta europea, quindi è una regola europea. E chi non vuole i nostri militari a bordo vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, il momento degli ascoltatori all'800 24 00 24. Buonasera a Giuseppe che chiama da Chieti. Ah, buonasera, buonasera. Maurizio. Ecco. No, volevo dire, volevo parlare di corona. Sì. Però, sentendo questo qua che parlava prima, non lo so che cosa rappresenta. Cioè, questa signora qua che è contro le leggi italiane, perché io ho fatto un anno di militare agli alpini e quindi ho dovuto rispettare la legge, lo devo rispettare tutt'oggi, che questo signore qua non merita il mio rispetto, e anzi, se lo incontro... Questo signore qua sarebbe il presidente di Medici Senza Frontiere? Parliamo delle ONG, sì, sì. Sì, in faccia, se lo incontrai, cioè, se lo incontro, perché... Se lo incontrassi, perché lui... Non faccia Giuseppe come ha fatto Corona, che ha sbagliato il congiuntivo, eh? Ah, no, no. Ha detto, no, se li avrei raggiunti, se li avrei raggiunti. No, se li avessi raggiunti, vabbè. Se li avessi... Sì, sì, sì, l'ho fatto perdere, cioè, il filo, Giuseppe. Dove voleva arrivare? Sì. Dove voleva arrivare? Perché un radical che mi ha preso, se ho sbagliato il congiuntivo, ecco, ho sbagliato il mio... Io non ho capito nulla, Giuseppe, è andata via la linea, non ho sentito. Proviamo a ripetere. No, mi faccia capire dov'è che ho sbagliato il congiuntivo, lei che è un radical chic, no, è un professorino, dai. No, no, lei, ho detto, non faccia come Corona che l'ha sbagliato, glielo faccio risentire, vuole sentire Corona che sbaglia? No, Vabbè, non c'è niente di male, si può sbagliare tutti, era una battuta, Giuseppe, vai. Tappabuchi al comunista di Taranto, cioè, sta facendo il tappabuchi al comunista di Taranto, cioè, vuol dire che vale meno di Taranto, insomma. Comunque, sì, può darsi, Giuseppe, ma ha chiamato per dire questo, non lo so io. No, ho chiamato che quel signore là, no, io sono italiano, quindi pretendo come rispetto le leggi, pretendo pure gli altri che lo rispettano, specialmente lui che parla. Però facciamo chiarezza su un punto: non è che le ONG non rispettano le leggi le rispettano, questo è un codice di comportamento che è una cosa diversa da una legge, no? È una cosa diversa, non è una legge, le ONG rispettano le leggi. Dopodiché viene proposto un codice di comportamento che loro non accettano, e qui si pone una questione. Certo. Allora se sei contro la legge, se tu ONG, se non accetti diciamo il codice di comportamento cioè, imposto dallo Stato italiano, come mi impone a me di pagare le tasse, sei contro la legge, può darsi, Giuseppe, può darsi. Infatti Minniti ha detto che gli chiuderanno il porto, bisognerà vedere poi se sarà possibile chiudere davvero i porti alle ONG, che alle navi delle ONG che non firmano questo codice di comportamento, perché ti voglio vedere poi con una nave con 200 persone a bordo e di no, non entri, vai da un'altra parte. Vedremo. Oscar da Milano, buonasera. Vai. Sì, ciao, volevo dire niente, che secondo me queste persone veramente non si rendono conto di quello che fanno, cioè magari anche animati dai buoni propositi, cioè, alimentano questo flusso di morte di persone, cioè la gente parte perché sanno che a 12 miglia li vanno a prendere. Se gli africani non sapessero che ci fosse, cioè, che ci sono queste navi che li pronti ad aspettare, probabilmente non partirebbero neanche. Sì, qua. Oscar, è vero, io ho cercato di farglielo presente a De Filippi di Medici Senza Frontiere, che e quello che cercava di fare l'Italia è di dare un segnale anche di stop, di dare un segnale che non ci sono tutte le condizioni facilitate per gli scafisti di arrivare fino al Mediterraneo e poi di affidare i migranti alle navi. Però è vero anche che c'erano anche in passato, prima che ci fossero le navi delle ONG, i trafficanti, i barconi arrivavano comunque, ci sono state le ondate degli albanesi negli anni 90, ci sono state altre ondate successivamente in condizioni diverse, quindi non è che la presenza delle ONG crea il presupposto per l'immigrazione. Se fosse così facile basterebbe togliere di mezzo le ONG. Uno spostamento a sud, cioè prima li raccattavano davanti a Lampedusa, poi pian piano sempre più giù, poi pian piano sempre più giù, adesso lo sanno che ci sono praticamente tutti fermi lì a 12 miglia pronti a prenderli. È chiaro che così l'opportunità dice, vabbè, 12 miglia ci proviamo, capito? No, secondo me è così veramente fuori controllo. Va bene, grazie, buona serata. Luca da Como, buonasera. Buonasera, io volevo dire due cose. Una, la prima riguardo alle raccomandazioni o atti di indirizzo di cui aveva accennato prima, ecco, sì. Secondo me una raccomandazione è quando si cita un'azienda, un atto indirizzo è quando si dice qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere nel servizio pubblico. Ecco, forse Luca l'ha detto meglio di come stavo cercando di dirlo io, anch'io la penso così, credo che quello non fosse proprio un atto di indirizzo, era qualcosa di più, c'era il nome di un'azienda dentro, quindi... Poi magari la segnalazione poteva essere, ripeto, benemerita, perché magari questa azienda lavora benissimo e Roma avrebbe bisogno di aziende che lavorino bene nel settore. Può essere disinteressata, diciamo così, può essere una raccomandazione disinteressata, però è sempre raccomandazione, diciamo una raccomandazione che fino a prova contraria non cattiva, possiamo dirla in questi termini. Invece per quanto riguarda le ONG, io mi chiedo soltanto che cosa sono lì a fare, ecco, cioè guadagneranno qualcosa. Il salvataggio in mare è una cosa indispensabile, è una legge antichissima, plurisecolare, che secondo me non va messa in discussione, ma se sono lì ad aspettare, diciamo, il disastro, l'emergenza, la necessità, sono lì per guadagnarci dei soldi, a mio modo di vedere. Va bene Luca, grazie. Sentiamo cosa ne pensano anche gli altri ascoltatori. Cosa ci stanno a fare le ONG in mezzo al mare? Fabio da Roma, benvenuto. No, niente, buonasera. Buonasera, volevo solo chiedere come, perché vengono portati tutti in Italia, se vengono presi in posti in cui magari possono essere più vicini, per dire in Tunisia, Malta, eccetera eccetera, visto che le leggi internazionali, mi è sembrato di capire, stabiliscano che i profughi o comunque i salvataggi in mare poi vanno portati tutti nei porti più vicini. Sicuri, porti sicuri più vicini, sì, sì. Ecco, quindi se vengono presi, diciamo, al largo delle coste libiche, a mio avviso potrebbero anche essere portati, per dire, in Tunisia. Correggetemi se sbaglio, io non sono... Allora, la questione del diritto internazionale, il diritto del mare, eccetera, eccetera, parla di porti vicini sicuri, quindi deve esserci due condizioni, porti sicuri e porti vicini. Se il porto in Tunisia non è ritenuto sicuro, si va in Italia, e di fatto è quello che è accaduto. Insomma, anche di questo però abbiamo discusso mille volte, Fabio. La novità adesso è questo codice di comportamento che la maggior parte delle ONG si rifiutano di firmare, che prevede per esempio i militari a bordo. Non vogliono i militari a bordo. Ho capito. Scusatemi, sì. Allora, io forse non riesco a vederle tutte le trasmissioni, però insomma la mia domanda era questa, adesso avete risposto. Era solo questo il discorso, cioè l'aggiornamento rispetto a quello che si è già detto tante volte in passato su come funziona il lavoro dell'ONG, il teorema dell'invasione, eccetera, eccetera, le correnti di migranti, eccetera. La novità oggi è questa, le ONG, la novità di ieri in realtà, da cui siamo partiti stasera, è che le ONG si sono rifiutate di firmare questo codice di comportamento che il governo però chiedeva per dare un segnale forse anche di unità, di collaborazione, per dare un segnale anche forse all'Europa che su questa questione sostanzialmente ci lascia soli. 800 24 0024. E allora è con noi il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, benvenuto. Buonasera. Benvenuto Nogarin. Allora, di fronte alla crisi dell'ATAC, l'azienda dei trasporti della capitale di Roma, si sta balenando la possibilità di fare quello che voi, con un'altra azienda pubblica, quella dei rifiuti, a Livorno, avete però fatto, cioè il concordato preventivo, giusto? Concordato preventivo in continuità. In continuità, una sorta di fallimento controllato, avete portato i libri in tribunale però senza interrompere il funzionamento dell'azienda, credo anche senza licenziare nessuno, giusto? No, soprattutto senza licenziare nessuno, non è un fallimento controllato, è il contrario, cioè in qualche modo è l'azienda che evita il fallimento attraverso l'ombrello di alcuni strumenti che vengono messi a disposizione, alcuni dei quali sono appunto la garanzia che tutto viene controllato dal tribunale, dalla sezione fallimentare del tribunale, attraverso appunto un commissario che verifica tutta una serie di passaggi. Ecco, però questi sono anche un po' dei tecnicismi che sono anche difficili da afferrare, da spiegare, ma è giusto anche dirli, però la domanda che le voglio fare, Nogarin, è questa: come mai adesso questa soluzione sembra, non dico la panacea di tutti i mali, ma insomma la soluzione che possa consentire a queste aziende pubbliche che sono vicine al fallimento, perché rota per l'ATAC di Roma, l'ex direttore generale dice che c'è 1,3 miliardi di debiti, parliamo di aziende decotte, insomma possiamo dire di aziende poco efficienti, ma si potrebbe parlare di assenteismo, di parentopoli, di stipendi d'oro pagati a dirigenti messi lì dai politici che poi non sanno amministrare le aziende. Tutto questo si potrebbe dire e si dice di molte di queste aziende. Perché il concordato preventivo che cosa consente di fare che in passato non è stato fatto? Allora, innanzitutto io non sono dell'idea che il concordato preventivo sia lo strumento adatto per tutte le stagioni. Sicuramente è uno strumento molto versatile che una volta che è impostato impedisce correttivi che non siano poi minimati appunto dal tribunale. Questo è un elemento di grande garanzia, nel senso che una volta che si è indirizzata una linea che è in qualche modo vittimata, che trova il gradimento dei creditori, dei soci, dei creditori, poi deve essere portata a compimento, quindi non può subire delle variazioni se non attraverso appunto l'organo di garanzia che è il tribunale. E questo è un elemento importante, sì, perché è una delle parti che purtroppo in Italia spesso e volentieri invece una volta che si è decisa una linea trovano poi vari non dico compromessi, però situazioni che non portano avanti quella linea che è decisa originariamente. Allora, quindi trasparenza, rispetto della legalità, il tutto passa attraverso il tribunale, quindi questi criteri sono sicuramente rispettati. Le faccio sentire cosa ne pensa Di Maio dell'ipotesi del concordato preventivo all'ATAC di Roma, poi facciamo una pausa sul traffico e torniamo. 800 24 00 24 col sindaco di Livorno Nogarin. Veniva tacciato di essere uno di quelli che voleva mandare al macero l'azienda dei rifiuti livornese perché aveva osato avviare il concordato preventivo in continuità. Il Partito Democratico ci disse: voi siete dei pazzi a mandare in concordato un'azienda pubblica. Quel caso ha fatto giurisprudenza e mi fa piacere che anche il Ministro dei Trasporti abbia scoperto il concordato e lo sostenga, perché anche per me è un'ottima strada per rimettere a posto un'azienda come ATAC. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, a Livorno, lo ha detto anche Di Maio, l'azienda dei rifiuti è stata salvata col concordato preventivo e con noi il sindaco di quella città, Filippo Nogarin. Allora, però, per salvare un'azienda inefficiente, in crisi, che non è andata bene, un'azienda pubblica fino adesso, come era il caso vostro, l'azienda rifiuti di Livorno, bisogna fare dei cambiamenti sicuramente. Cosa avete cambiato? Come è andata, come sta andando adesso a Livorno? Che cosa avete modificato nella gestione di questa azienda? Allora, spesso e volentieri si parla di efficientamento all'interno di un'azienda e poi non si comprende che lo strumento dell'efficientamento sostanzialmente è riportato dall'organo di governance e da tutta la filiera di comando che viene trasferita attraverso l'esecuzione dei servizi che svolge. Nella fattispecie AMPS, che è l'azienda dei servizi ambientali, ha cambiato questo, ha cambiato quindi i rapporti di forza interni, ha diminuito il numero di persone che sono dedicate alla parte amministrativa e ha potenziato le stesse persone dedicandole più al servizio che deve svolgere. Che è la raccolta dei rifiuti, che sappiamo che è un servizio che ha un grosso impatto proprio pratico, no? Di attività pratica. Bisogna andare a svuotare i cassonetti. Poi a Livorno avete avviato il porta a porta, se non ricordo male. Sì, noi stiamo lavorando sul porta a porta, che è esteso in gran parte della città, quindi c'è un cambiamento anche di abitudini importante. Quindi è un po' questo il punto nodale della questione. Io non conosco la situazione di ATAC, quindi non posso esprimermi in merito a quella singola azienda, però riconosco che questo strumento, nella fattispecie nel caso AMPS, ma anche in altre situazioni, è clamoroso per AMPS perché è stato il primo caso in Italia di un'azienda interamente pubblica che ha percorso appunto la strada del preventivo, del concordato preventivo in continuità. E sicuramente è uno degli elementi, uno degli strumenti che possono arrivare al raggiungimento dell'obiettivo, che appunto è quello dell'efficientamento. Chiudo con un dato: il bilancio di AMPS a un anno di distanza dall'ingresso nel concordato preventivo ha portato un utile di 2,3 milioni. Siamo partiti con un debito che era certificato di oltre 42 milioni di euro, quindi questo vuol dire che in buona sostanza si riesce poi attraverso questi strumenti a apportare quelle modifiche interne che di fatto realizzano l'efficientamento aziendale. Quindi Quindi io da quello che capisco è va bene il concordato preventivo, è uno strumento che consente di ripartire su basi nuove, poi sì. Però dice Nogarin bisogna anche fare nuovamente e in maniera più efficiente del passato il proprio lavoro, in questo caso la raccolta dei rifiuti, quindi voi puntate sul porta a porta, avete cambiato gli obiettivi di raccolta differenziata, li avete aumentati grazie anche tra l'altro agli amici di Zero Rifiuti che so che sono stati ampiamente coinvolti, quindi ecco, cioè, questo è un passaggio, però Nogarin dice non è che lì si risolve tutta la faccenda, però sulla questione di Roma, no? Sì. Il 5 Stelle fino ad oggi ha sempre difeso la Giunta Raggi senza far mai filtrare una critica, ma è passato più di un anno dall'insediamento, c'è però un ritardo, sì. Si può dire questo almeno, c'è un ritardo sulla risoluzione di alcuni problemi a Roma, per esempio in questo caso dell'ATAC che scoppia il problema un anno dopo l'insediamento, o no? Ma guardi, io su questo non posso assolutamente avere il termometro della situazione, perché per quanto mi riguarda la situazione di AMS è accaduta oltre un anno dal mio insediamento, quindi credo che legittimamente si possa richiedere a un amministratore di poter avere delle soluzioni immediate, però la situazione di una grande città della capitale italiana è veramente un qualcosa di impressionante dal punto vista anche dell'indebitamento medio delle aziende partecipate, oltre che del comune stesso. Quindi il ragionamento che si fa spesso è quello di dire lasciatela lavorare, semplicemente perché nelle altre esperienze che abbiamo avuto lasciar lavorare le persone poi ha prodotto dei risultati. Cioè città piccola, problemi piccoli, città grande, problemi grandi, dategli ancora più tempo per risolvere. Questo ci sta. Livorno è una città media, quindi non è sicuramente una città piccola, ha una complessità già abbastanza strutturata, che, è chiaro sì. Che però non è Roma, e questo è un po' il punto. No, è che mi è scappata a me Nogarin, lei lo sa che io sono pisano, quindi mi è scappata che Livorno è una città piccola. Nessuno è perfetto, lo so. Adesso si ricomincia con le biciclette che le portano via i livornesi, vabbè. Lasciamo stare su questo. Però ecco, un altro argomento, Nogarin, di politica nazionale, no? Quello dei vitalizi. Oggi è stata bocciata la vostra richiesta di accelerare i tempi per l'approvazione anche al Senato dell'abolizione dei vitalizi, che molti dicono è una cosa che il governo in qualche modo ha preso da voi facendo quello che avreste fatto voi, proprio la stessa cosa, quindi è un segnale positivo del governo Gentiloni in questo momento, della maggioranza. Segnale positivo se aveste avuto la volontà di accelerare, e il problema è che secondo me c'è un po' di timore di equilibri all'interno dell'attuale maggioranza di governo, perché arrivare a toccare il portafoglio in genere crea poi alcuni malumori. Su questo credo che il Movimento 5 Stelle abbia da sempre fatto da esempio, non aspettando le leggi ma partendo in automatico con il buon esempio, con le decurtazioni che hanno permesso di finanziare tante piccole e medie imprese e hanno portato già tanti posti di lavoro. Certo, questa non è la ricetta che va a salvare l'economia nazionale, ma dimostra chiaramente che al di là delle sì. chiacchiere, poi, come al solito, tutti quelli del movimento fanno fatti, e fanno fatti che sono concreti e che sono sempre a disposizione del cittadino. Sul governo Gentiloni però ci aggiungo una cosa, perché allora la questione dei vitalizi a settembre si vedrà se la maggioranza avrà la forza poi di abolirli veramente, definitivamente, in tutte le sue forme, tutte le loro forme, facendo una cosa che avreste fatto anche voi. Gentiloni qualche settimana fa ha introdotto il reddito di inclusione, che è simile al reddito di cittadinanza che volete voi, più piccolo, però è meglio il governo Gentiloni del governo Renzi? Questa è una domanda a trabocchetto. Io credo che no, però saprei... sinceramente misurandolo su queste cose qua. Ma non allora misurandolo su queste cose qua, sicuramente il modello che noi abbiamo portato avanti, peraltro lo dico con orgoglio, è il modello che Livorno ha messo in piedi, che è quello di un reddito di cittadinanza. E non è un problema di utilizzare cittadinanza o inclusione, semplicemente un differente modo di approcciare un aspetto della società, che è quello che ormai è un bisogno che soltanto Italia e Grecia non hanno apportato e che tutte quante invece le altre nazioni europee hanno in piedi da molto tempo. Vabbè, però diciamo che se andasse in porto questa misura qua segnerebbe un punto a favore di questa maggioranza. Questo credo che... No, per l'amor di Dio, meglio che niente sicuramente, però ci sono tanti altri modi di affrontare questo problema e affrontarlo con un metodo che sia effettivamente risolutivo. Io credo che da questo punto di vista cioè i virtuosismi li abbiamo dimostrati anche nelle amministrazioni locali. Sì. Questo è non riesco a farle dire che il governo Gentiloni è meglio del governo Renzi, forse in qualche modo lo pensa, forse ce l'ha fatto capire. Ci sono certe parole che non escono. Qual era quella di Fonsi che non riusciva a dire scusa, se non ricordo male, no? O che ho sbagliato, che ho sbagliato, non poteva dire che aveva sbagliato. Va bene, grazie Nogarin, buona serata, grazie. Al sindaco di Livorno. Allora, anzi, in realtà volevo fargli sentire, perché c'è un ascoltatore, credo, che vuole intervenire sul concordato preventivo. Mauro da Firenze. Mauro? Sì, buonasera, dottore. Sì, sì, eccolo qua. Non so se Nogarin è ancora in linea. No, è caduto? C'è ancora? È caduto, no, non sono ancora in c'è linea. Ancora, perché forse questo ascoltatore ha una domanda per lei sul concordato preventivo. No. Mauro, vuol dire cosa ne pensa? Velocemente, però. Allora, il concordato preventivo con continuità, sa che cos'è? È una trappola per gli artigiani onesti e per i piccoli imprenditori onesti. E le dico il motivo. Perché bloccano tutti i debiti dell'azienda, vengono bloccati, cioè io devo incassare da loro, non mi pagano, ricominciano a spendere. Ok, voglio lasciare il tempo a Nogarin per rispondere. Il tema, credo che sia il tema dei fornitori, Nogarin. Cosa risponde? Certo. Allora, per quanto riguarda gli artigiani, sono soddisfatti al 100% e salvando un'azienda che rischia il fallimento, la differenza è che oltretutto gli artigiani sono garantiti, sono una delle fasce garantite al 100%, che quindi avranno completamente il ristoro dei loro crediti. La questione invece è quella che dovrebbe fare un artigiano davanti a un'azienda che potenzialmente è sull'orlo del fallimento, che in caso di fallimento le percentuali di quello che viene riscosso è veramente irrisoria e sfiora percentuali che stanno al di sotto del 20%. Quindi dico, ci sono casi oltretutto di fallimenti che hanno chiuso al 7-8%. Cioè, o mangi questa minestra o salti dalla finestra, insomma. Nel nostro caso, la cosa curiosa che mi viene da dire all'artigiano è che la fascia degli artigiani prenderanno il 100%, mediamente tutti quanti i creditori hanno avuto una percentuale media dell'84% del ristoro dei crediti. Va bene, dobbiamo fermarci. Se questo non è un successo, credo che sarebbe allucinante pensare che vada in una direzione differente. Grazie Nogarin, grazie, buona serata. Giornale Radio 800 24 00 24, a dopo. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Roscian. Dal lunedì al venerdì alle 8 su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato. Ma quanta violenza che passa in tele. Però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio. Giuro, stavo diventando pazzo. Ci pagava male appena l'affitto. In Italia non funziona un cazzo. Sognavo nella tasca. Ho vomitato le rime più crude. Che brutta vita fanno i cantanti. A 15 anni oggi tutti youtuber. E questo è il ricambio generazionale. Se segui ricambio rapper nazionale. Corro sulla fascia. La moda divide, la gente si lascia. Al passo con i Kardashian. Dove sei? L'estate comincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città. Pace agli uffici e alle università. Beviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toya Pampa. 19:15, ben ritrovati cari ascoltatori. Con Si può fare, siamo insieme fino alle 20:00 24:00 24. Si può fare, che normalmente sentite nel weekend, il sabato e la domenica mattina alle 7.30 e che invece in questi giorni, pochi giorni d'agosto, poi andremo tutti in vacanza e ritorneremo il 21 agosto, eccetera, eccetera. Va bene, allora ci sono commenti al 349-238-6666. Intanto sulla reazione all'intervista al sindaco di Livorno Nogarin, parlando in questo caso di Roma, però dopo 40 anni di cattiva gestione si pretende, scrive Marco da Bologna, che la Raggi sistemi tutto in 4 e 48, ma dai, e non sono un grillino. No, io ho semplicemente chiesto a Nogarin se dopo un anno e più dall'insegnamento della giunta Raggi non si possa parlare di ritardo nell'affrontare problemi come per esempio quello dell'ATAC a Roma. Un altro ascoltatore dice: te ne guardi bene dal dire che Nogarin è a 5 stelle. Perché non ho ripetuto che è del Movimento 5 Stelle? Ma dai, ma lo sanno tutti. L'abbiamo intervistato, anzi, per fargli parlare positivamente del concordato preventivo a Livorno, che ha risolto, apparentemente almeno in parte, i problemi dell'azienda di raccolta rifiuti. E anche qua c'è un'altra selva di messaggi sul concordato preventivo. Chiedetelo ai fornitori che vantano crediti. Quanto bello è il concordato preventivo, dice un ascoltatore, però Nogarin l'ha chiarito. Sono stati pagati i creditori, i fornitori, soprattutto quelli, i piccoli artigiani, detto che prenderanno il 100%. Un altro ascoltatore scrive: ci vogliono come minimo 5-6 anni per incassare da un concordato preventivo. Come fa il sindaco a dire che gli artigiani hanno avuto mediamente più dell'80%? Non lo so, questo è quello che ha detto lui, la sua parola. Comunque, allora, adesso, eccoli qua, Fabio Fibra. Ve l'ho detto? Quando possibile vi raccontiamo anche qualche buona pratica per tirarci un po' sul morale, per riconquistare anche un po' di fiducia in noi stessi. Siamo tutti un po' stanchi, sfibrati dalle notiziacce della settimana. E allora, a Savona sta andando benissimo l'esperimento di un bagno, di uno stabilimento balneare praticamente autogestito, dove paghi in natura. È il sogno di tutti forse farlo. Allora, ne parliamo con Flavio Ermellino. Buonasera, benvenuto Flavio. Buonasera, buonasera a lei. È uno dei gestori del bagno Rafael sul litorale di Savona. Uno dei gestori perché in pratica vi state autogestendo, è giusta questa parola? Certo, certo, ci autogestiamo. In pratica tutti i soci partecipano attivamente a tutte le attività della spiaggia, dal montare a smontare la struttura e tutto quello che riguarda l'andamento dello stabilimento balneare. Anche il bar, il ristorante, la pulizia, certo, tutto praticamente, certo. Tutto fate. Allora, noi non abbiamo ristorante, abbiamo solo un bar che viene, sì, gestito a turno. Una settimana ogni famiglia che è socia dei bagni gestisce questo baretto nostro interno. Quindi se sei socio sai che prima o poi ti tocca una settimana di gestione del bar. Certo. In questo modo però, ecco, e questo è il modo col quale poi praticamente internalizzate tutto, fate tutto da voi, non avete spese, avete meno spese che altri. Logicamente si abbassano i prezzi tantissimo perché non abbiamo nessuno da pagare e ci facciamo tutto noi. Ma come fate a gestire questa cosa? Non deve essere semplice. Tu per esempio nella vita extra bagno Rafael cosa fai Flavio? Che lavoro fai? Oh, io ho un'impresa edile con i miei fratelli. Quindi sei un imprenditore. Sì, imprenditore, piccolo imprenditore. Ma quando si dice autogestione, no? Quasi si rievoca una parola che andava di moda negli anni 70, in passato. Voi siete dei nostalgici o avete in mente qualcos'altro? No, assolutamente. Noi innanzitutto stiamo proseguendo un discorso che è nato qui a Savona negli anni 70. Un prete molto famoso, un prete operaio qui di Savona, ha messo su questa struttura. E noi stiamo continuando il suo lavoro, ci sono ancora dei soci fondatori di questo circolo che partecipano attivamente e noi cerchiamo di dare una mano per quello che possiamo. Logicamente tutto finalizzato sempre a un discorso di solidarietà, di tutte queste cose qua. Ecco, ma bisogna essere particolarmente motivati, particolarmente stacanovisti, perché vedo che arrivano già dei messaggi di gente che dice: ma perché preferisco andare alla spiaggia libera piuttosto che lavorare anche quando sono in vacanza? Qual è la motivazione che regge il risparmio, immagino, no? Ma non è tanto, anche se siamo liguri, non è tanto risparmio. Questo aiuta. aiuta, questo quando, magari aiuta. Certo, certo, aiuta tantissimo, però è anche solo il fatto di poter stare tutti insieme, di cenare tutti insieme, di condividere, insomma, cioè, uno spirito, uno spirito un po' comunitario, questo. Certo, però certo. Flavio, quanto può arrivare a spendere una famiglia per, le tariffe possono variare, però a me quest'estate andando al mare è capitato 15 euro ombrellone sdraio classico, oppure 20, 25 fino a 30 euro addirittura magari col parcheggio in certe zone più care. Lì ma da voi... guarda, sinceramente io non ti sto a dire i prezzi, sì, degli altri stabilimenti balneari, anche perché da noi non può venire nessuno che sia socio, quindi noi ci gestiamo tra di noi, paghiamo una quota annuale minima, perché poi tutto il resto viene. Quindi non, fatto non si può fare un confronto col giornaliero, facciamolo lo stagionale. Quanto paga una famiglia per l'ombrellone, l'esdraio, per esempio, facendo poi tutti questi lavori? Una famiglia di quattro persone paga per l'ombrellone, un sdraio, un lettino, mediamente sui 400 euro tutta la stagione. E con un risparmio rispetto a quello che può essere il costo nello stabilimento a fianco, dove questi impegni non ce l'hai, di quanto più o meno? Questo sei in grado di dircelo? Io dal ricordo di quando andavo negli stabilimenti balneari normali, una famiglia di quattro persone almeno quasi 1.000 euro a stagione. Quindi insomma, senza risparmio, contare, sì, senza contare che poi c'è tutto il discorso di usufruire del bar, che da noi ha dei prezzi molto contenuti, perché giustamente noi non dobbiamo guadagnare niente, non dobbiamo pagare dipendenti, niente, e mentre invece io capisco benissimo che gli altri stabilimenti balneari devono viverci, è il loro lavoro, devono pagare i dipendenti, ci mancherebbe. Quindi è praticamente la logica di un circolo, però diciamo, se posso dire, Flavio, se posso dire, sì, l'unica pecca forse è proprio il fatto che non sia possibile accedere, per esempio, a qualcuno che venga lì in Riviera per un giorno o due, poter in qualche modo inserirsi, no, in questo gruppo, in questa comunità. Ci possiamo... proprio il discorso del circolo, sì, porta a questa conseguenza, come tutti i circoli arci che ci sono, che possono essere società di mutuo soccorso, dove per entrare anche solo a consumare deve avere la tessera, anche da noi devi avere la tessera. Puoi entrare se hai la tessera ACLI, ma non puoi usufruire della spiaggia. Però magari sarebbe bello in futuro provare a lavorarci, a trovare una forma magari un tesseramento minore per poter aprire anche a qualcuno che può essere magari anche solo incuriosito, no, da conoscere questa esperienza e portarla chissà altrove. Potrebbe essere che, certo, che ci siano degli adepti che... Potrebbe. Noi stiamo proseguendo tutto quello che ci siamo trovati, stiamo andando avanti, abbiamo anche una lista di persone che sta cercando, aspettando di diventare socio, però non possiamo prendere nessuno perché la struttura poi è quella che è. Cioè, avete già la, come dire, la coda di gente che vorrebbe entrare? Sì, senz'altro. Perché quindi, poi comunque queste cose, amici, parenti, insomma, si diffonde la voce, quindi certo, tutti lo sanno, certo, dicono guarda che bello, guarda come sono bravi al Rafael. Ma chi è il titolare? Esiste un titolare? Cioè il proprietario della concessione? Chi è? Il titolare della concessione è il circolo, sì, Acri, spiaggia Rafael. Noi paghiamo la concessione demaniale come tutti gli stabilimenti balneari ed è tutto intestato a questo circolo. Nel circolo poi viene eletto un consiglio direttivo di cui io faccio parte, però poi... Chiaro, però normalmente la concessione ha un costo piuttosto elevato, che è quello che, come dire, disincentiva magari altri a fare come fate voi, perché chi è che c'ha i soldi per comprarsi questa concessione? Quanto costa la concessione? Ma guarda, le concessioni dipende dalle zone, dipende dai paesi, logicamente una concessione a Lazio penso che sia diversa da Savona, tanto noi paghiamo la concessione con queste quote che prendiamo e poi c'è da dire che tutto il resto della struttura è nostro, nel senso ce lo siamo ritrovati piano piano, i soci hanno fatto lavori, hanno fatto mutui per costruire, per fare tutto quello che adesso ci troviamo a sfruttare. E logicamente uno stabilimento balneare ha altri costi molto più alti, capisco benissimo, anche strutture diverse, noi comunque non è che se abbiamo un ombrellone che non va tanto bene, cerchiamo di aggiustarcelo tra di noi, c'è chi lo mette a posto. Insomma, si va anche un po' a risparmio, se no, chiaro, queste tariffe sarebbe impossibile mantenere. Sarebbe impossibile, quello senz'altro. E i vicini di bagno, di stabilimento, perché in alcune zone d'Italia si dice bagno, in altre stabilimento, no? Quindi bisogna sì, che... sì. Lì da voi bagno si dice, bagno Rafael. Come... Sì, noi sì. Come sono i rapporti con i vicini di bagno? Guarda, tutto noi bene? Noi facciamo parte dell'associazione Bagni Marini, partecipiamo a tutte le attività. Siamo come struttura, siamo messi in un pezzo di litorale dove sono tutte spiagge libere, quindi diciamo che tra virgolette non andiamo a... Cioè a il confronto si può fare con la spiaggia libera, non con altri stabilimenti gestiti privatamente magari, per cui uno può accomodarsi liberamente sulla spiaggia libera, oppure no, da voi non si può perché bisogna essere parte del circolo, a meno che in futuro non cambino le regole oppure qualcun altro voglia copiare la vostra anche idea. Che stiamo tutti aspettando questa famosa legge Bolkestein, la direttiva europea che dovrà insomma cambiare un po' tutte le regole, quindi non si sa tra qualche anno come potrebbe finire. Va bene, comunque per il momento Flavio, grazie per essere stato con noi, complimenti, questo è quello che accade grazie. Al bagno Rafael di Savona, completamente autogestito, dove fanno tutto da soli, turni al bar, le pulizie eccetera eccetera, e in cambio pagano molto meno che negli altri stabilimenti balneari, solo loro però che sono soci della cooperativa. Andiamo con Carlo che ci chiama da Ascoli Piceno, buonasera Carlo. Buonasera. Benvenuto. A lei. Ascolti, io ho lavorato moltissimi anni in quell'azienda, l'ho amata, l'ho rispettata perché mi ha dato una dignità, mi ha dato un lavoro. Quale azienda? Quale azienda? ADAC di Roma. E volevo segnalare questo, tutto vero in ordine a quello che può essere l'aspetto della politica e dei loro maneggi che praticamente fanno da sempre, no? Sì. Però ci sono delle responsabilità che vengono dal basso, diciamo, chiamiamolo basso, cioè dalla parte sindacale, ed è una responsabilità gigantesca dal mio punto di vista, pagata dall'azienda, perché lei pensi che alcuni anni or sono i dirigenti sindacali distaccati dal servizio da almeno un anno hanno avuto il privilegio di saltare due e anche tre livelli di carriera, al punto che si sono ritrovati persone con la quinta elementare o con la terza media al massimo, sì, a fare i funzionari, a fare i capi di qualcosa e addirittura dirigenti. E questo non una persona o due persone, ma decine e decine di persone. Questo le dà la misura del perché, quando poi sono state fatte assunzioni tipo quelle di Alemanno, no? E nessuno dei sindacati ha mai protestato, non ha mai segnalato, perché c'era una convivenza del tu me dai e io te do. Sì, vabbè, assoluta, certo, aziende pubbliche, no? Usate come bancomat per, esatto, per tutto. Parte di tutti, certo, poi la politica ovviamente. Ma è però il punto, Carlo, adesso è guardare in avanti, no? Guardare al futuro. E guardare in avanti è una cosa, uso una parola esagerata, semplicissima, dico io, no? Sì. L'aspetto amministrativo, quello io non ci metto. Ma mano, tu cosa facevi all'ATAC? Che lavoro facevi? Io ero capo di un deposito. Quindi non guidavi però il mezzo? No. Non ha mai guidato il mezzo. No. Perché uno dei problemi è anche quelli, no? Che l'azienda trasporti, poi ci sono, mettiamo, 1000 dipendenti, di cui 800 che non guidano e solo 200 che guidano. Poi magari... Guardi, lei sta facendo una trasmissione radio, io non gli posso rubare troppo tempo. Ma l'origine dei mali di questa azienda, sì, stanno dal giorno dopo che l'allora direttore Corrado Guzzanti ha lasciato il suo incarico per limiti d'età, non so che altro. Per diversi anni questa azienda non ha mai avuto un direttore generale quelli adatti, cioè deve essere un ingegnere del traffico, no? Erano sempre amministrativi che diventavano direttori di questa azienda e a loro volta nominavano un vice direttore ingegnere, perché deve essere un tecnico direttore. Tutti comandanti senza truppa, come sempre. Grazie Carlo, buona serata, grazie. 800 24 00 24, torniamo dopo la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta può fare. Cronache da un paese migliore. Io sono pronto a guidare il paese con una coalizione alternativa a Renzi e a Grillo, e quindi senza raccattare quelli che hanno difeso le poltrone con Renzi fino a ieri mattina. Sono pronto, non vedo l'ora di rivoluzionare il fisco, la scuola, la giustizia e di bloccare l'invasione, quindi col centrodestra ben pronto. Noi siamo d'accordo a sostenere qualunque intervento blocchi un'invasione. Un'invasione, un'occupazione militare da parte di immigrati che non scappano dalla guerra, un tentativo di sostituzione etnica organizzato e finanziato, quindi che si svegliano. Certo, non sono due navi a risolvere il problema, occorre proteggere i confini, occorre il blocco navale, occorre affondare le navi degli scafisti e occorre sequestrare anche le navi di quelle ONG che si rifiutano di avere controlli e polizia a bordo. Escludo in ogni modo che si possa trattare di blocco navale. Blocco navale è un atto ostile, non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando di una richiesta di sostegno e di aiuto che viene fatta per quello che riguarda l'attività della Guardia Costiera Libica. Voglio ribadire e sottolineare che è la prima volta che arriva una richiesta di questo genere, che ci viene dunque formulata questa richiesta, e che un'azione come quella che viene configurata sarebbe stata impossibile senza una specifica richiesta da parte libica. 19:33 minuti, tra poco torniamo agli ascoltatori. Sentiamo prima però sulla questione delle ONG, del codice di comportamento, sentiamo la voce di chi ha firmato, ha aderito a questo codice di comportamento, Save the Children, e anche invece il direttore generale di Medici Senza Frontiere, che non ha firmato il codice. Sentiamoli. Medici Senza Frontiere non firma il codice di condotta, abbiamo comunicato questo al Ministero degli Interni, al tempo stesso però abbiamo comunicato che tutti quanti quei punti che non sono problematici per noi saranno rispettati dalla nostra organizzazione, così come abbiamo sempre fatto. Noi abbiamo valutato che questo ci consente di operare nelle migliori condizioni possibili nell'interesse dei bambini e adolescenti che Save the Children ha per missione il dovere di salvare. Il governo ha detto, il ministro Minniti ha detto che le navi che non aderiscono a questo codice, a queste navi potrebbe essere impedito l'accesso nei porti italiani. Voglio però vedere a farlo veramente, quando ti arriva una nave con 200-300 persone a bordo, gli dici no, guarda qua no, vai in un altro porto. È forse quello che vorrebbe mezza politica. Abbiamo sentito le voci di Maio, di Salvini, Brunetta, sì benissimo, tutti a dire vai, andate in Francia, andate altrove. Ma veramente è praticabile una cosa del genere? Non credo, perché a parte che non li farebbero sbarcare nemmeno in Francia, E poi insomma, non lo so, vediamo. Intanto cosa vi faccio sentire? Vi faccio sentire ancora la vicenda Corona sul fatto che sono entrati in casa sua i giovinastri, come li ha definiti lui, però che li avrebbe inseguiti ad accettate fino a macellarli, e lui il giorno dopo continua a dire che quello avrebbe fatto. Le tragedie, signori miei, nascono non dalla logica, dal ragionamento. Io non potevo mettermi al computer a dire che ora è, posso difendermi, è la luna piena, perché hanno fatto la legge adesso che ti devi difendere dopo la mezzanotte con la luna piena, col calo di luna, con la luna. Io ho agito d'impulso perché mi sono sentito brutalizzato a casa mia, non entri, altrimenti ti faccio fuori. Ho un ricordo di giovinezza, quando lavoravo nella bancarella di mio padre, e quando mi rubavano qualcosa mi sentivo morire, sentivo profondamente l'ingiustizia. Beh, la battuta che si potrebbe fare è che anche Brunetta un giorno ha lavorato in vita sua alla bancarella del padre quando era bambino. 800 24 0024, andiamo con i vostri interventi, ascoltatori. Chi abbiamo in coda? Da un po' che vogliamo far intervenire, prima di tutti Manlio da Udine, vai Manlio. Buonasera. Eccolo qua. Ecco, la domanda sarà cruda, molto cruda, da buon friulano come Corona. Sì. Faccio però la premessa. Le ONG, ho sentito in una trasmissione radiofonica, hanno un costo delle navi giornaliere che va dai 9 agli 11 mila euro. Il totale sono 3 milioni e 6 all'anno. ora. Dov'è la differenza? Ma qualcuno me lo deve spiegare bene, perché come Corona spiega bene, noi siamo duri di testa. Qualcuno deve spiegarmi bene dov'è la differenza con le navi negriere che portavano la stessa merce, e mi vergogno a dirlo, ma è così, la stessa merce ai coltivatori di cotone in America. Non lo so, se lo chiedi a me la differenza, non lo so, la differenza mi sembra abissale. Cosa c'entra? Scusa, quelle erano navi di schiavi, erano persone schiave, non erano persone libere. Queste sono persone che vengono da una condizione estremamente difficile, paragonabile forse alla condizione di schiavitù, perché stanno dove ci sono dittature e guerre, poi arrivano da noi e non sono più schiavi. Non è tutto così, le trovo belli, robusti. In salute. Non staranno bene, certamente non sono quelle fotografie di bambini deperiti. Quindi ti sei risposto da solo: la differenza con le navi dei negrieri è che questi stanno in salute e quelli là non stavano in salute. No, non stavano in salute anche quelli, perché selezionavano quelli giovani, quelli robusti, e poi al mercato. Era merce di mercato, solo che in America quella volta c'era la richiesta di questa merce. Adesso qua non c'è questa richiesta, il mondo del lavoro non richiede. 70 anni fa, infatti, il mondo del lavoro non richiede, ma infatti il paragone, Maglio, dai, non è, cioè, va bene così l'invasione. Le ho detto che sarei stato duro. Mio padre, esattamente sì, 70 anni fa, sbarcò a Buenos Aires. Ma prima di scendere dalla scaletta, gli fu chiesto un documento solo: il contratto di lavoro. Sì, 70 anni fa. E ce l'aveva il contratto di lavoro tuo padre? E che lavoro ha fatto poi tuo padre in Argentina? Ha fatto il manovale, è stato 2 anni, poi è rientrato, spendiamoci, perché non era l'America. Sì. Beh, quasi molti di noi in famiglia hanno un nonno, qualcuno che è andato in America. Io c'è il nonno di mio papà, insomma, va bene. Maglio, grazie, buona serata. Vediamo se il paragone con le navi degli schiavi fa presa, ma insomma, chi è convinto della teoria dell'invasione sicuramente sarà anche d'accordo con te, Maglio. Andiamo con Gigi da Roma, vai Gigi. Ciao, senti, insomma, volevo solo riprendere un attimo invece io il discorso di Corona, dell'episodio, insomma, notturno che ha avuto. Sì. E aggiunto, tu hai fatto un commento, hai detto, ma dice qui, certo, se però rispondiamo a un'offesa del genere con le accettate, dice, non è ovviamente commisurata a mente reazione fredda. Io dico a mente fredda, perché io a mente calda capisco la reazione di Corona, assolutamente, però poi il giorno dopo continuare a sostenere quella teoria anche 2 giorni dopo mi sembra vuole troppo essere coerente forse col personaggio, non lo so, dico io. No, perché io ecco, ho visto la trasmissione l'altra sera, lui in realtà secondo me voleva solo dire questo, che se uno viene svegliato alle 3:30 di notte, non capisce nulla, è preso dal panico, non ha l'idea, quindi potrebbe fare anche una pazzia quale quella, quello penso avesse detto. Quello sì, no, ma è quello che ha detto, io mi aspettavo solo che potesse aggiungere, però avrei fatto una stronzata a farlo, perché sarebbe stata una cosa sproporzionata rispetto all'aggressione. Questo lui non lo ha detto, ma beh, insomma, non è che adesso facciamo il processo alle intenzioni di Corona. Questo è quello che ho detto, non ho detto che non capisco la sua reazione, per quanto mi riguarda. Comunque Gigi, ok. Remo da Macerata, vai. Ma non lo so, il dibattito su questa cosa degli immigrati è veramente a livello tribale, cioè, qui c'è un continente dove si muore di fame, si muore di diarrea, si sterminano milioni di persone come Tautu e Puzzi, crocifiggono i cristiani, vediamo la gente che scappa e ci poniamo il problema delle ONG. Cioè, il codice di condotta di ONG è una questione da prefetto, da guardia costiera, cioè un paese dovrebbe fare una politica estera d'Europa sull'Africa, se mai diventano colonia cinese, o prima che la gente continui a morire di fame, vuol dire. E poi mi sembra strano che con la tecnologia di oggi non si riesca a fare un monitoraggio satellitare, boe, radar sul Mediterraneo decente. L'Italia dalla strage rustica che chiacchiera sul fatto che non c'è un controllo radar del Mediterraneo, ancora oggi non riusciamo a vedere che però spiegami un attimo, Remo, per esempio il monitoraggio satellitare, no, a cosa potrebbe servire? No, io penso, te lo chiedo proprio per strategia, sì, con una strategia per l'Africa seria di sviluppo, prima appunto che arrivano cinesi o altri fanno il loro mercato nell'ultimo continente non sviluppato del mondo, e quindi con il fatto di comunque salvare la gente dalla vita per morte, non Bill Gates o la fondazione, ma magari l'Unione Europea in maniera un po' più seria. Poi si può immaginare di colpire gli scafisti o chi fa il traffico con la tecnologia, con la possibilità di individuare queste navi quando partono e fermarle. Cioè, penso che oggi siano le possibilità tecniche di fare un monitoraggio del Mediterraneo serio. No, ma cosa potrebbe servire fare il monitoraggio? Perché una volta che uno te lo chiedo proprio per capire dove intercettare, vedere i punti di partenza, riuscire a fare gli interventi preventivi. Con questo accordo della Libia, sempre il fatto che ci sia la Marina italiana sulle coste libiche, abbinato a un sistema di controllo di questo tipo, potrebbe rendere efficace un meccanismo di questo tipo. Ma il problema non è il codice di condotta dell'ONG, non è che... No, su una cosa sono d'accordo con te, che è vero che il codice di condotta dell'ONG, per quanto veniva chiesto un segnale alle ONG, forse anche di collaborare con la nuova linea del governo italiano, che non è arrivato questo segnale, però sicuramente si tratta di un magro risultato. Dopo settimane di trattativa in sede europea, l'unica cosa che l'Italia ha spuntato è queste nuove regole europee sul comportamento delle ONG, che però guarda caso tocca all'Italia poi di far rispettare, no? Ed è tutto quello che si è riusciti ad accogliere. Poco, ci vorrebbe sicuramente di più per affrontare questa, che il presidente di Medici Senza Frontiere non vuol definire una situazione straordinaria. Gli sbarchi quest'anno sono gli stessi dell'anno scorso, però da tanti anni ci sono molti sbarchi, centinaia di migliaia, quindi è una situazione, poi si può giocare sulle parole, straordinaria, emergenziale, un'invasione, ma è una situazione grande, grossa, che l'Italia sta affrontando in gran parte in questa fase da sola. Altre volte è toccata alla Turchia, alla Grecia, adesso sta toccando all'Italia. Grazie Remo, buona serata. Gino da Taranto, vai. Gino si è distratto, niente. Allora andiamo con Paolo da Torino, proviamo con Paolo. Ci sono. Vai. Allora, io volevo venire per il discorso delle ONG, no? Siccome che comunque è assodato che questi, voglio dire, sbarchi, eccetera, voglio dire, in qualche modo contribuiscono a alimentare le casse della malavita, della delinquenza, perché sono loro in buona sostanza che gestiscono tutto il business. Le ONG che vanno a prendere questi disperati a 12 miglia dalla costa aumentano soltanto i soldi a questa organizzazione, perché quelle fanno pagare lo stesso biglietto e hanno costi 10 volte inferiori, tant'è che usano gommoni cinesi da 4 soldi, ergo prendono i motori con le moto d'acqua e li riportano indietro. Possibile che non riusciamo a intervenire magari a sequestrare i motori di queste imbarcazioni, che sono le cose che costano? Direttamente facciamo solo gli interessi della malavita, che ne abbiamo la consapevolezza, voglio dire, perché se un tempo per portare in Italia queste organizzazioni sostenevano dei costi, oggi i costi saranno neanche dimezzati. Paolo, Forse è vero, è possibile che non ci riusciamo a prendere, ma forse è vero, non ci riusciamo, non è così semplice. Si era parlato, Alfano aveva parlato di geolocalizzare coi droni, coi satelliti, le navi degli scafisti, ne avranno prese due forse negli ultimi anni. Forse due, ed è anche vero che di fatto l'ultimo tratto di viaggio dal paese di provenienza all'Europa è il tratto che è fatto a carico a questo punto delle ONG o della Guardia Costiera o di Triton o di un'altra missione. Gli scafisti lo sanno, basta metterli al largo della Libia e poi verranno accolti. Il problema però non è che se ricordiamoci, no, da dove si parte dal fatto che anche se non ci fosse il tratto, diciamo, offerto dalle ONG, sbarcherebbero comunque, gli scafisti avrebbero fatto l'ultimo tratto coi barconi, quindi non è che se eliminiamo le navi delle ONG eliminiamo il problema. Questo è illusorio. Ricordiamoci, quando prima le navi non pattugliavano e gli sbarchi c'erano lo stesso. 800 24 00 24, naturalmente siamo qua per discuterne con voi ancora fino alle 20. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non passa al Senato la richiesta 5 Stelle di un esame urgente dei vitalizi. Il PD, metodi da regime, Grillo, Dem, voltafaccia. A Roma l'assessore Mazzillo rimette delega al patrimonio. Missione navale italiana in Libia. Il ministro della difesa Pinotti: nessuna violazione di sovranità. Dal nostro paese sostegno logistico e operativo alle unità navali libiche. L'Unione Europea, i porti italiani non garantiti alle ONG che non sottoscrivono la convenzione, ma resta valida la legge internazionale di sbarcare i migranti in un porto sicuro. Incassato il voto per la sua assemblea costituente, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, fa arrestare due leader dell'opposizione, ma è sempre più isolato. Inizio d'agosto con temperature record in molte città. La Sardegna devastata dagli incendi. Evacuato il carcere di Issa Arenas. I detenuti hanno dormito in spiaggia. Strangola la fidanzata vicino a Udine e vaga tutta la notte con il corpo in auto. Poi si costituisce. Ieri l'omicidio-suicidio in Trentino. Oltre 70 le donne uccise nei primi 6 mesi dell'anno. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should. E poi dicono che non cambia niente nel clima, nelle temperature, nelle stagioni, che non cambia niente, che non c'è l'effetto dell'uomo sui cambiamenti climatici o che i cambiamenti climatici non ci sono. Sentite questa storia qua allora, che ce la racconta Davide Gonella, gestore del rifugio omonimo Gonella sul Monte Bianco. Buonasera, ciao. Buonasera a lei. Allora, bene, noi molto bene. Forse, Davide, tu dove ti trovi? Sei... Ma io sono sceso a valle. Sei sceso, fisicamente. Sceso a valle, però ti trovi ancora a valle, proprio giù, o sei a mezza strada? Ma a che altezza siamo sei? Siamo su un altro rifugio che gestiamo da anni, il rifugio Elisabetta. A quota? Non è 2200 metri. Sempre. A quest'ora com'è? C'è ancora luce, naturalmente. Com'è? Sì. Che cosa vedi attorno a te, il panorama? Ma uno scenario... sempre più comune, i ghiacciai sempre più secchi. Ecco. E purtroppo bisognerà accettare il cambiamento climatico come una realtà. Perché è difficile, ma al momento da cambiare. Da digerire o da contrastare. Perché, ripeto, esatto. A parole si possono fare tanti discorsi. Se guardate, come riportano i giornali in questi giorni, sì, le foto, per esempio, di un anno fa esatto, com'era il Monte Bianco nell'area dove c'è il rifugio Gonella, a quota 3071 metri di quota, la foto dell'anno scorso e quella di quest'anno, vedete che c'è una differenza abissale. Cioè, allora era quasi tutto bianco, adesso invece, Davide, che com'è? Ma purtroppo quest'anno ho avuto a che fare con una stagione molto particolare, inverni molto secchi e poi temperature a giugno incredibili, mai viste. Hanno portato via tutto. Si è sciolto tutto. Che voi siete rimasti senza acqua e avete dovuto chiudere. La notizia poi è questa. Esattamente, proprio tecnicamente non si poteva più lavorare. Ma tu non si potevano più. Da quanti anni sei lì? Sei stato lì? 18 anni. Quindi in questi 18 anni sarà successo altre volte, stagioni come questa o no? Stagioni difficili sì, ma come quest'anno no, sicuramente sì, un andamento difficile da prevedere. Ma potresti dire che nel tempo progressivamente... Il trend è quello, anche perché proprio orograficamente proprio il percorso è cambiato, generando dove prima c'erano dei pianori, dei salti di ghiaccio che adesso comunque prima o poi genereranno problemi per la salita in futuro. Chi è che però sale da voi? Chi è che sale da voi normalmente? Credo degli alpinisti, insomma, gente esperta. Una clientela di medio livello internazionale che sa abbastanza il fatto suo, insomma, non sono degli improvvisati. Non è un posto proprio per tutti, insomma, no, è tra le vie normali al Monte Bianco la più difficile, le più facili sono in Francia, dal rifugio Gouté, dal rifugio e dall'alto rifugio, anche dal rifugio Torino italiano. E qual è la vostra specialità lì a rifugio Gonella? Ma la nostra specialità è dell'accoglienza, assistenza agli alpinisti, è un rifugio già tecnico, per cui l'alpinista non cerca quel comfort che magari a valle si esige quasi. Cerchiamo di dare il massimo, anche perché comunque anche gli orari e la vita che si svolge all'interno del rifugio è abbastanza particolare. Noi serviamo a cena alle 5 di pomeriggio e poi a mezzanotte svegliamo per la colazione. E perché ci si sveglia a mezzanotte? Ma normalmente i ghiacciai si percorrono nelle ore più fredde, giusto. Ho fatto una domanda stupida, ma non essendo pratico di ghiacciai. Però adesso, che cosa dicono gli esperti che avrete consultato? Meteorologi, perché c'è questa situazione? Perché comunque si vede in tutto un po' il mondo, un innalzamento globale delle temperature che determina scioglimenti, cambiamenti a livello di umidità dell'aria, di precipitazioni, si concentra in certe zone, mentre altre zone che prima erano più come dire, soggette a precipitazioni al momento non lo sono. I grossi effetti del cambiamento climatico al momento si vedono in Sud America, ecco, in zone che dove prima quest'anno in Cile, il sud del Cile, io vivo d'inverno in Sud America, c'era 12 gradi l'acqua, quest'anno hanno visto 20 sul termometro, ecco, a livello della Patagonia, cose mai viste. E però, tanto per tornare da voi, voi siete nella zona più, diciamo, delle Alpi, quella normalmente ritenuta più nevosa, dove si va di più a sciare, perché nella parte invece orientale quasi si dà per scontato che ci sia meno neve anche in inverno, sulle Dolomiti, eccetera. E se questo è quello che accade anche da voi, cosa ti aspetti per i prossimi anni che vada avanti così? Il trend sicuramente sarà quello, purtroppo bisognerà far fronte aprendo prima cercando di sfruttare la primavera come periodo d'apertura, dovuto anche chiaramente a dei cambi climatici che in quel modo favorirebbero la trasformazione della neve e la percorribilità della via, ecco, cosa che diciamo in passato non accadeva, per cui i nostri terreni non sono terreni da primavera, ma sono terreni da climi più caldi, necessitano una giornata di grande sole per poi di notte righiacciare e consolidare il manto nevoso, capisci? Va bene, invece, Davide, noi ti ringraziamo, che dire, bocca al lupo a te, al rifugio Gonella. Questo è quello che accade sul Monte Bianco, rifugio chiuso per siccità, sarà una settimana terribile dal punto di vista delle temperature un po' in tutta Italia. E quindi, beh, sopporteremo, passeremo anche questa. Antonio da Vicenza, buonasera, vai che siamo quasi in chiusura. Sì, buonasera, niente, volevo dire, siccome sono Medici Senza Frontiere, sì, perché non vanno a attraccare su altri porti tipo Malta, la Spagna, la Francia, che sono senza frontiere? Perché arrivano in Italia e fanno tutti la voce grossa. Perché qua non hanno paura di niente? Se me lo può spiegare? Dai, io non glielo posso spiegare. Bisognerà, bisognerà riconvocare il presidente Medici Senza Frontiere, glielo chiederemo. Però escludo che siano presenti solo in Italia. Dai, Antonio, sai benissimo che queste sono ONG che sono presenti ovunque nel mondo, no? E quindi la domanda è scontata. Sono anche altrove a fare anche altre cose, eh? Poi tu dici che in Italia fanno la voce grossa? Beh, ovvio, in Italia fanno la voce grossa. Arrivano qua, pretendono, hanno pretese. Dopo l'emerito dottor Strada che dice che i genitori che non vanno a vaccinare i figli sono degli irresponsabili. E lui che ci sta impestando di persone con tutte le malattie, che cos'è? Un criminale? No, ho capito, un momento. Adesso a parte Strada che c'entra, vabbè, sì, emergency. No, c'entra anche questo, c'entra. Siccome lui, cioè, sì, è stato il fondatore, dice chi non va a vaccinare. Però non mi dite, non mi venire a dire che Emergency non fa il lavoro di aiutare le persone, insomma, nei paesi poveri. Sembra, mi sembra che aiuta tanti giovanotti ben messi invece di aiutare proprio quelli che hanno ma bisogno. Ma che cavolo stai dicendo, Antonio? Emergency c'ha gli ospedali in Afghanistan dove c'è la gente che ha le mani mozze per le mine. Dai, non diciamo cazzate, insomma, Antonio. Dai, insomma, Emergency. Emergency, veramente stai dicendo? Emergency non aiuta le persone nei posti dove stanno male. Ma dai. Io questo non lo so. Cioè magari se non lo sai, però non le dire queste cose. Ma scusami, magari aiuta, però il comportamento che hanno adesso. Scusa, che ci stanno invadendo delle persone, non mi sembra neanche corretto. Ma non c'entra nulla Emergency con l'invasione, allora, non c'entra nulla. Allora firma, ma allora l'ONG firma anche tu, se lo sai, dice devi firmare. Questo è un altro discorso. Certo. No, non accetto di che tate, ora non puoi fare quello che vuoi, insomma. Gli altri paesi li accetti, da noi no. Scusa. Va bene, Antonio, dai, va bene. Grazie, buona serata. Niccolò. Pronto? Da Firenze, vai. Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. No, io volevo portare una testimonianza riguardo, siccome sono un ex militare ed ho lavorato molto in Nord Africa. E a me mi piacerebbe che la gente, la popolazione italiana, sapesse che purtroppo ci ritroviamo un problema a carico non creato da noi. Cioè, mi piacerebbe che questo problema fosse risolto dalla Francia, dagli Stati Uniti. Perché fino a che c'era Gheddafi, e io ci sono stato, purtroppo in questi paesi, ma è così, se non c'è un dittatore, questa gente non la tiene a bada. In Egitto, idem con patate. In Libia pure. Devo chiudere, però mi dispiace Niccolò, grazie di aver essere intervenuto, ci risentiamo domani, grazie a tutti, anche a Cristian Goldoni naturalmente, Matteo Ramelli, Andrea Spenuso in redazione, Andrea Roccabella in regia, ciao da Alessio Maurizi, buona serata, a domani, ciao.